Mix 24 di Giovanni Minoli. Niente truppe italiane in Libia, ma rimane la possibilità di utilizzare nuclei speciali per missioni segrete. Inizia in questo modo da 9 anni, con il classico rito solenne dall'alza bandiera, la giornata dei militari italiani in Kosovo. Circa 12.000 uomini e donne di UNIFIL, civili e militari, in un'area geografica caratterizzata da destabilizzazione, Siria, alture del Golan. 450 soldati italiani si uniranno agli inglesi e agli americani nella non facile missione di difendere la diga di Mosul, fondamentale per l'Iraq. Molti lo sanno, ma noi siamo anche lì nel Mali, dove c'è stato un intervento militare francese contro Al-Qaeda. Adesso c'è un contingente militare italiano proprio lì. Dunque, missioni militari e politica estera. Come sta cambiando il nostro ruolo alla luce anche della crisi nel Mediterraneo? E la domanda che ci facciamo, che vi facciamo, sono tutte necessarie le missioni italiane all'estero? 800 24 00 24 numero verde, 349 238 6666 l'SMS se avete opinioni o domande da fare su questo tema. Il generale Mario Arpino, che è già stato capo di Stato Maggiore della Difesa, oggi membro del Consiglio Direttivo dell'Istituto Affari Internazionali. Ecco, generale, noi spendiamo 78 milioni anche di questo miliardo e 200 milioni, spendiamo 78 milioni anche quest'anno per la nostra presenza nei Balcani, che è cominciata nel 1999. Cioè 17 anni e non c'è ancora nessuna stabilità. Ma a che cosa è servita la nostra presenza? Sì, questo è un problema che non è di oggi, è un problema che è di sempre. In particolare le missioni che hanno origine dall'ONU, su mandato dell'ONU, tendono a non finire mai. Ed è sempre stato così. Cominciano ma non finiscono. Esatto, cominciano ma non finiscono mai. Ecco, c'è un motivo per cui non finiscono mai. Perché? Il motivo che bloccano la situazione, una situazione critica. Certo, risparmiano vite umane, ma in genere suddividono un territorio o suddividono delle fazioni che restano nemiche, e quindi fino a quando non ritornano amiche, non fanno la pace, la missione e quindi quasi. Però mai come la pace non la fanno, appunto, in realtà la missione finisce. Ecco, generale Alpino, in Afghanistan infatti oltre 179 milioni di spesa, però i talebani continuano ad essere una minaccia, anche quella missione è fallita o comunque in attesa di una soluzione impossibile. Sì, non si può dire che è una soluzione fallita, perché tante cose sono state fatte. Soprattutto nelle province che erano sotto la nostra giurisdizione, come la provincia di Herat, le province fenetime, scuole sono state fatte, acquedotti sono stati fatti, istruzione per le ragazze c'è, eccetera, ma questo dura fino a quando come prima. Ecco, però in Libano ci siamo dal 2006 con l'UNIFIL. Costa al contribuente italiano 155 milioni di euro, ma insomma, dov'è l'interesse nazionale? Sì, ma prima del 2006 c'eravamo solo per la parte elicotteri fin dal 1978. È peggio, mi sento. Ho portato io con un 130 il primo elicottero per succedere ai norvegesi nel giugno del 78. Ma l'interesse nazionale dov'è in questo caso? L'interesse nazionale c'è sempre, perché la nostra politica, diciamo che le forze armate sono fattore di potenza e strumento di politica. Ora stendiamo un velo, trattandosi delle nostre, sul fattore di potenza. Beh, ma certo, come strumento di politica mi pare che la politica estera ne usufruisca larghe mani da parecchi anni. Senta, comunque, generale Arpino, leggendo il provvedimento di rifinanziamento si capisce che è la NATO che decide le missioni. C'è la possibilità per i parlamenti in qualche modo di controllare quello che succede, oppure è un pacchetto chiuso? No, non è un pacchetto chiuso, i parlamenti possono controllare ogni cosa. Quindi potrebbero anche spendere un po' meno? Si potrebbe spendere un po' meno, ma il problema non è tanto lo spendere meno quanto lo spendere meglio, anche in questo caso. Purtroppo non lo possiamo fare, non si riesce a fare. Perché? perché le richieste che abbiamo sono molto, molto specifiche. Noi poi cerchiamo di attenuarle con dei caveat nazionali, con delle cose che si traducono molte volte in brutte figure, quindi si ritorna al punto di prima e si cerca di lavorare facendo le cose bene e ricavandone anche un lustro per la nazione. Quindi l'interesse nazionale in genere è un lustro per la nazione, è un lustro per la nazione se facciamo le cose che ci chiedono gli altri, perché la NATO, secondo lei, generale Arpino, che la conosce bene, va riformata? Sì, la NATO va senz'altro riformata. È uno strumento superato? È uno strumento superato così com'è, di vertice in vertice ogni 3 anni cambia, è già cambiata molte volte, adesso Varsavia cambierà di nuovo e io credo ma che cambia in meglio un allargamento che... però dell'impiego della NATO come strumento dell'ONU senza limitazioni territoriali. Adesso ci sono limitazioni territoriali. Ecco, però il candidato alla presidenza degli Stati Uniti che ha già avuto la nomination, Donald Trump, ha detto che la NATO è obsoleta, la partecipazione degli Stati Uniti dovrebbe diminuire sotto il profilo finanziario e militare. E quindi? Questo sta già succedendo da tempo. Gli Stati Uniti fino a tempo addietro contavano per il 70% in termini finanziari, in termini di partecipazione, poi sono scesi al 50% e probabilmente con la carenza di interesse dopo questo pivot strategico verso l'estremo oriente, l'oriente e l'estremo oriente, e la carenza di interesse quindi per il Medio Oriente e l'Europa, sicuramente diminuiranno i finanziamenti e diminuiranno le forze. E quindi però forse bisognerà organizzarsi NATO, in un altro la modo. La NATO senza americani diventa come l'Europa. Ecco, forse servirebbe di più, no? Organizzata in un altro modo a questo punto. Ma può darsi che si avvicini il momento in cui le due cose si uniranno. Senta. È ridicolo, fin da quando è nata la forza militare europea, c'era la Thatcher che diceva no duplication, nessuna duplicazione. Nessuna duplicazione era un mantra, invece in realtà di duplicazioni ce n'è. Certo. Le forze sono sempre le stesse. Certo. 236 milioni li abbiamo stanziati per combattere l'ISIS. Però la guerra in Siria la stanno facendo i russi, in Iraq gli iraniani, in Libia se ci siamo per ora non si vedono azioni. Noi cosa facciamo? Noi riempiamo di navi il Mediterraneo, di navi che hanno un compito del tutto diverso da quello che in realtà svolgono. Noi abbiamo, assieme a tutti gli altri europei, diciamo che su 28 europei 24 partecipano in qualche modo, ciascuno in modo diverso, all'Euronavfor, quella che opera in questo periodo, la forza principale, quella che opera a Stolammeraglio Credentino. Ma ce n'è altre 2 o 3 di flotta, c'è quella NATO, c'è un'altra forza della Trident, sempre europea, eccetera, che occupano però, se noi andiamo a vedere, una posizione che non è quella che è stabilita dal loro mandato. Il mandato di Euronavfor è difendere i confini mediterranei dell'Europa, dell'Unione Europea. Da chi non lo dice. Ecco, appunto, no, perché sarebbe interessante capire da chi bisogna difenderli. Perché... D'altra parte, fare il soccorso è un obbligo, naturalmente. I capitani di porto intervengono quando ci sono i problemi, intervengono senza guardare se gli scafi sono grigi, cioè militari, oppure neri, di navi da trasporto civili. Hanno l'obbligo di intervenire. Senta, però... Abbiamo visto che la Francia è andata a fare la guerra in Libia da sola contro i nostri interessi e solo per i suoi interessi. Gli americani, lo dice anche lei, si sono disimpegnati. Putin ha cambiato le sorti della guerra in Siria, però impiegando le sue forze speciali, carri e aerei. Ma stanziare soldi senza fare la guerra, senza una strategia comune perché la NATO va riformata, che senso ha? Al senso di rimanere in qualche modo sulla scena. Noi stiamo riuscendo, naturalmente applicando solamente soft power, non stiamo applicando maniere dure, però riusciamo a rimanere sulla scena e riusciamo a rimanere in qualche modo senza fare brutte, grosse brutte figure, perché qualche figurina strana la facciamo. Dov'è la più strana che abbiamo fatto, secondo lei, ultimamente? Ogni volta che mandiamo fuori degli aeroplani mettendo dei caveat troppo severi. Naturalmente noi, non so, il nostro pubblico ricorderà, noi eravamo in Afghanistan, c'erano dei nostri aeroplani, c'erano gli MX, c'erano anche i Tornado in periodi diversi, però avevano il divieto di sparare. Ora, succedeva che le nostre truppe nella loro azione dovevano chiedere il concorso aereo, eppure essendoci i nostri aeroplani là che avevano l'unica capacità che avevano di identificare il nemico, l'unica autorizzazione che avevano era quella di fare fotografie, dovevano intervenire gli F-16 olandesi, gli F-16 americani o i Tornado inglesi. Insomma, altro che doppioni. Non è una bellissima cosa. Senta, un'ultimissima domanda, generale Alpino. Qual è la valutazione militare delle forze in campo oggi in Libia? Ma dal punto di vista nostro, noi adesso abbiamo piccoli numeri, ma tutto sommato abbiamo una qualità che è alla pari con tutti gli altri. Piano piano. Ma per fare cosa? Ci siamo, ecco, per fare quello che stiamo facendo, per fare missioni di peacekeeping o anche qualche missione, diciamo, nell'ambito del capitolo settimo, cioè di peacemaking e peace enforcing. Se dovessimo fare la guerra saremmo un disastro. 800 24 00 24, numero verde, 349-238-6666, l'SMS. Mario Arpino è stato molto, molto chiaro. Sì. Personal serie, quindi 1,2 miliardi spesi per finanziare le missioni, però non è che ci ha spiegato che vanno spesi per forza. No, infatti non vanno spesi per forza. Possono anche essere una piccola cifra, dipende dalla missione certo, che un paese si vuol dare, dal tipo di politica estera che vogliamo fare. Io ho l'impressione, bastato snocciolare un po' di missioni, sembra un chip in un certo senso. Sì, lo metti là e poi vedi che succede. Cioè, ma poi è bastato elencare appunto il costo e, diciamo, il posizionamento di alcune missioni anche nel corso del tempo, una cronologia impietosa secondo me, per capire che qualcosa va rifatto. A mio avviso noi ci dobbiamo concentrare sul Mediterraneo e trovare lo strumento militare e civile giusto, A, per proteggere i nostri confini, B, per fare una politica attiva da quelle parti. Non lo so, tutta l'Africa del Nord ha bisogno di essere monitorata con droni, sorveglianza appunto attiva, vanno rafforzati tutti i dispositivi aerei. È inutile mettere navi da guerra a salvare migranti. Per carità, va fatto, va da sé, ma poi non hai lo strumento di politica estera vero e proprio per trovare una soluzione. Però negli anni 50 c'era l'ipotesi della CED, dell'esercito europeo di difesa. E gli americani hanno detto no. No, grazie. Hanno detto no, però adesso vediamo che gli americani si stanno sostanzialmente disimpegnando. Certo, no? Perché... Quindi, insomma... È un'occasione per... Cioè, la NATO per me è tutta da rifare. Poi... Mi pare che sia un argomento che è all'ordine del giorno. Siamo presenti un po' dappertutto, sì. Pietrangelo, però al di là delle nostre possibilità, perché sono tanti cippini messi un po' in giro. Eppure quando si decide, quando c'è da decidere qualcosa, noi l'abbiamo visto in Libia, per esempio con i francesi, subiamo e basta. Subiamo e basta, e non lo dico con parole mie, ma uso quelle che ieri Romano Prodi nella sua lezione alla società Dante Alighieri ha voluto adoperare. Noi non abbiamo interessi costruiti su decisioni nostre, ma sono tutte le nostre decisioni misurate sugli interessi degli Stati Uniti d'America, che per esempio, per quel che riguarda le imposizioni che ci danno, riguarda la Russia, faccio un esempio più immediato, non hanno per esempio commercio con loro. Vi vorrei raccontare questo episodio che mi è toccato e che spiega gran parte dei nostri disagi sulla scena internazionale. Tornando da Teheran a Roma, i passeggeri vengono perquisiti. La stessa cosa non succede per chi per esempio torna da Abu Dhabi. Ora è risaputo che, e lo citavi prima tu col generale, impegnati sul fronte della guerra all'ISIS ci sono gli iraniani, certo. Così come ci sono i russi, Eppure ai russi applichiamo le sanzioni, le rappresaglie le facciamo agli iraniani, non certamente per esempio con chi arrivando da Abu Dhabi invece nei confronti dell'ISIS non credo che abbia lo stesso atteggiamento che c'hanno gli iraniani. Mi sembra che sia una riflessione giusta questa, perché è una schizofrenia totale questa NATO che si deve rinnovare. Però secondo te, Mario, cosa succede? Si rinnova come? Cioè sparisce? Allora no, tu fai la domanda più crudele, ovviamente, quella sulla quale tutti gli analisti si stanno tormentando da anni, cioè gioco la sicurezza appunto del futuro e così via. Io ho un'esperienza personale piccola, se vuoi, però nel 2004 partecipai, eravamo nel pieno della campagna irachena, a Bruxelles e a Washington, a un seminario della NATO, importante, top level, no? Per decidere, ma noi eravamo dei poveracci, però quelli che parlavano erano persone autorevoli. Sì, certo. Sul loro futuro, dovevano discutere sul loro futuro. Benissimo, 2004, 2016, sono passati 12 anni, non è capitato niente. E non è successo niente di tutto questo. Sì, ci sono stati degli adattamenti, però in realtà l'America, quella, la cosa stupefacente per me è il ritorno dell'America all'ossessione dell'orso russo. Certo. Ora, lasciamo perdere, lo dice Secchi, può essere che non ha nessun valore, però se voi andate a leggere quello che scrive John Mersheimer su Foreign Affairs, sul tema, questa è una cosa che risulta molto incomprensibile. Tutta la roba che è stata fatta sull'Ucraina, per analisti politici seri, americani, è molto difficile da capire. Si parla addirittura di provocazione. E in tutto questo è stato trascurato il Mediterraneo, si è lasciata marcire colpevolmente la situazione siriana. Quindi il Mediterraneo è diventato un cimitero. Da riflettere sul rapporto fra l'Europa e gli Stati Uniti. No, io sai cosa penso? Non voglio sembrarti eccessivamente provocatore, ma io penso che Trump sia quasi uno shock salutare a questo punto. Cioè, con la sua ipotesi di praticamente di sciogliere la NATO, per grosso modo. Almeno ti costringe a fare qualcosa. Cioè, voglio dire, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. È come il Brexit. Sì. Ecco. Gianandrea Gaiani, che è direttore della rivista Analisi Difesa, buongiorno. Buongiorno a voi, ascoltatore. Ecco. Senta, ma queste missioni, dal suo punto di vista, queste missioni militari, hanno senso? Ma io credo ormai la maggior parte di queste no, e anche molte di quelle altre che lo avrebbero, per come vengono svolte, non ce l'hanno. In realtà noi paghiamo un prezzo agli americani, abbiamo rafforzato la presenza in Iraq perché ce l'hanno chiesto gli americani, che ogni settimana con qualche voce autorevole ci chiedono anche di andare in Libia, dove il nostro governo ha detto che adesso non ci va. Ma la NATO, abbiamo discusso molto della NATO, NATO così... Com'è? È uno strumento obsoleto, come dice anche Trump? Cioè... Ma è uno strumento della penetrazione della politica statunitense o anglo-americana. Se noi leggiamo i comunicati della NATO, le dichiarazioni ufficiali fatte da vertici anglo-americani e che parlano per 28 paesi, in realtà rappresentandone pochi, forse appunto gli anglo-americani e alcuni paesi dell'est Europa, il nemico è la Russia. Come se ci fossero orde di soldati russi che massacrano le persone nei ristoranti o nei centri o nelle aree dove si fanno concerti a Parigi. Ecco, ma mi pare che la percezione sia che il nemico è altrove, non sono proprio i russi. Esatto. Ecco, ma facciamo delle valutazioni concrete, come avevamo cominciato a fare col generale Arpino. Ecco, per esempio, il governo Prodi aveva ritirato le truppe dall'Iraq, oggi il governo Renzi è di nuovo tornato con 1000 persone più o meno, tra supporto logistico, difesa, com'è. Ecco, c'ha senso o anche lì si ubbidisce un ordine e via? Ha senso, noi siamo tornati in Iraq nella coalizione che dovrebbe combattere lo Stato Islamico, in realtà non lo sta facendo. Prima il generale Alpino citava il Kosovo, ricordiamoci che in un Kosovo grande come l'Umbria nel 99 la NATO faceva 500-600 missioni aeree al giorno, la coalizione contro l'ISIS ne fa 17-20 al giorno, quindi in un'area grande come la Gran Bretagna, quindi insomma quel tipo di coalizione non sta facendo una vera guerra allo Stato Islamico. L'Italia la fa ancora meno, perché abbiamo truppe che fanno gli istruttori, abbiamo aeroplani che volano disarmati, i Tornado, anche i droni Predator, e quindi insomma è una presenza che paga il pegno a una coalizione guidata dagli Stati Uniti, come il rafforzamento della missione in Afghanistan, ma che non ha un'efficacia militare, se non quella di addestrare il peshmerga. Ecco, Gaiani, noi lo diceva prima anche Mario, dovremmo concentrarci sul controllo del Mediterraneo, però spendiamo 52 milioni nell'Oceano Indiano tra la Somalia e Djibouti. Ma perché c'è una missione? No, guardi, aspetti, non ho finito. In Mali, prego, abbiamo speso 3,2 milioni di euro per una missione che interessa solo i francesi. Perché dobbiamo, manco gli americani, i francesi, che sono notoriamente nostri concorrenti spietati, per esempio in Libia. Perché le missioni che ho citato sono missioni NATO o come quella di antipirateria nell'Oceano Indiano, oppure UE, come quella in Somalia, di cui abbiamo il comando, tra l'altro, o quella in Mali che fa addestramento. Quindi paghiamo l'impegno alle nostre organizzazioni di cui facciamo parte, la NATO e l'Unione Europea. Però sulla Somalia, ad esempio, io credo che dovremmo investire di più. Sono 3 anni che in questa nostra ex colonia il governo traballante e corrotto, come tutti i governi di mezza Africa, ci chiede di mandare una missione militare, non solo quella UE, una missione militare italiana, in un'area dove potremmo avere un'influenza importante. Non lo stiamo facendo, buttiamo soldi invece in Iraq o in Afghanistan, e in Somalia stanno arrivando con una missione militare a una base i turchi, che sono i nostri concorrenti diretti, certo, sia in Libia come nell'Oceano Indiano, come ruolo di potenza regionale. Certo, ma con tutti questi impegni presi per conto della NATO, in Siria però, l'abbiamo già detto, ma lo ripetiamo con concretezza, chi ha capito com'era il corso della guerra in realtà è stato Putin, sono stati i peshmerga turchi, gli iraniani, che stanno dimostrando che la battaglia proprio in queste ore per liberare Mosul e Fallujah non era una battaglia impossibile. Con quale strategia militare ci stanno riuscendo, lei che è un esperto di cose militari? Beh, i russi hanno messo in campo una grande capacità aerea e anche forze terrestri di qualità, che hanno potuto ottenere grandi successi perché sul campo c'era un esercito, quello di Bashar Assad, che non è quello iracheno, ma un esercito che sa combattere, che i russi hanno riarmato. Nella battaglia di Fallujah, i Pasdaran iraniani hanno svolto un ruolo importante non solo nella preparazione del piano, ma anche nell'attuazione dell'operazione. Sono le milizie sciite dei Pasdaran iraniani che conquistano i territori e poi li danno subito in gestione alla polizia irachena, per una ragione semplice: perché quella popolazione di Fallujah è una popolazione sunnita, e c'è il timore che le milizie sciite, come hanno già fatto a Tikrit, possano compiere rappresaglie sui civili una volta liberata la città. E quanto è importante strategicamente riprendere Fallujah? È importante strategicamente e simbolicamente. Strategicamente perché comunque è una spina del fianco a 50 km da Baghdad in mano allo Stato Islamico, e perché è stata la prima grande città irachena a venire occupata dall'ISIS, nel disinteresse dell'opinione pubblica, nel gennaio del 2014. Già lì l'esercito iracheno dimostrò la sua incapacità, 10.000 disertori neanche 2 mesi, i reparti che si dissolvevano invece di combattere, c'erano già le avvisaglie di quello che sarebbe accaduto nel giugno di quell'anno, quando l'ISIS piombò poi su Mosul e sull'intero nord. Ecco Gaiani, lei ha detto che i russi sono intervenuti con gli aerei e riarmando anche l'esercito che combatteva. Riarmandolo come? Con che tipo di armi? Beh, loro gli hanno fornito carri armati, anche nuovi T-90, e gli hanno fornito nuovi aeroplani, MiG-29, gli hanno fornito tecnologia da imbarcare sui vecchi aeroplani per poter essere più precisi, per poter lanciare ordigni di precisione, per avere una maggiore efficacia. Questo l'hanno fatto anche con i reparti terrestri, in particolare. Quindi agendo in modo coordinato con i reparti terrestri. Diciamo che quando la Russia ha annunciato il suo ritiro parziale dalla Siria, lo ha potuto fare perché a quel punto i suoi consiglieri militari avevano già, che sono presenti tra i reparti siriani, avevano già dato all'esercito di Bashar Assad una capacità tale da poter rimpiazzare almeno in parte le forze russe che erano state schierate appunto nel Le ho fatto scorso. Tutte queste domande tecniche per arrivare a un punto e capire perché l'Occidente non avrebbe potuto fare esattamente queste cose? Ma io sono convinto che l'Occidente abbia il paradosso, la coalizione, di considerare nemici della coalizione o comunque esterni alla coalizione gli unici paesi che combattono l'ISIS, perché l'Occidente allineato con le monarchie del Golfo, è tra i maggiori sponsor dell'ISIS. E quindi è una finta il fatto di volerlo combattere. Diciamolo con chiarezza, sì. Americani hanno liberato Baghdad da Saddam Hussein in 6 settimane. Sì. Riuscirono persino in 5-6 settimane a prendere Kabul e Kandahar, che non vuole dire eliminare i talebani. Tra l'altro proprio ieri è uscita la notizia che i talebani continuano a ricevere soldi da Dubai e dalle banche del Golfo, guarda caso. Ma al di là di questo, hanno preso quelle città in poche settimane. Adesso Obama ci vuole raccontare ormai da 2 anni che per sconfiggere l'ISIS ci vorranno degli anni. Diciamo che l'ISIS è quello strumento che impedisce agli sciiti di assicurarsi il controllo di quella mezzaluna che va dal Mediterraneo, Libano del Sud, controllo dagli Hezbollah, attraverso la Siria, l'Iraq e l'Iran, a creare una zona sciita che si contrappone a una grande area araba sunnita, e non solo araba perché ci sono anche i turchi, che è sostenuta dall'Occidente, perché la Turchia è nella NATO, perché l'Arabia Saudita e gli Emirati del Golfo sono nostri clienti. E quindi sarebbe importante cominciare almeno a dire questo pezzo di verità. Va bene. Grazie Gaiani, Pietrangelo, che dici? Mi non pare posso che un'analisi corretta e perfetta, certo, cioè, fuori dalle ipocrisie, diciamo. E a parte le ipocrisie istituzionali, purtroppo dobbiamo considerare anche l'attività continua di menzogne, di falsificazione fatta dal sistema di informazione, che non dice la verità sulle cose. Noi proviamo a dirle che i nostri piccoli mezzi. E Mario, che dici tu? Sei d'accordo con Gaiani? Sì. Mi pare che l'analisi sia. Contano i fatti. I fatti sono questi. Senti, così. Tu hai una testimonianza per chiudere, Mario? Anziché musica, una poesia bellissima scritta da Sigrid Sassoon. Prima guerra mondiale, lui fu soldato, decorato. Una cosa. Sentiamo. Beh, come vanno le cose in paradiso? Vorrei tu potessi dirlo, perché mi piacerebbe sapere che stai bene. Dimmi, hai trovato la luce perpetua o sei stato risucchiato dalla notte eterna? Perché quando chiudo gli occhi mi si mostra chiaro il tuo viso. E ti sento fare certe vecchie bonari osservazioni, posso ricostruirti nella mia mente, anche se te ne sei andato di pattuglia nel buio. Odiavi il giro delle trincee, eri fiero di nient'altro che di avere begli anni da passare. Desideravi tornare a casa, unirti alla folla noncurante di gente che lavora in armonia col tempo come amico. Tutto spazzato via. Ora sei oltre il filo. Nessuna possibilità di strisciare indietro. Hai finito con il fuoco delle mitragliatrici. Abbattuto in un attacco, fallito in partenza. (800) 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS, bellissima poesia pubblicità. Beh, grande questo. Mix 24. Allora, Pietrangelo, che ci fai sentire oggi? Siccome si canta in metropolitana, siccome si suona, ci si ferma per saldare il pedaggio a chi, magari senza un tetto sopra la testa, trova però voce e canta, anzi prega. E la canzone che abbiamo mandato in onda dice: il sangue di Gesù non mi ha mai tradito, e c'è solo una cosa di cui sono certo: lui mi ama tanto. Non viene da Roma, ma da Londra. Nel 1971, dalla fermata Waterloo, fu registrato questo canto, e un senza tetto che sta cantando, anzi che sta pregando, e oggi è un brano di Tom Waits. Ah, Ulisse ci scrive: il braccio armato dell'Europa nel Mediterraneo, tornando a quello che dicevamo prima, nel Mediterraneo è quello russo, in quanto i nostri reciproci interessi sono coincidenti. Non sono proprio coincidenti, no, però insomma diciamo che possono incontrarci. E che poi in ogni caso, quante Parigi, quante Bruxelles ci vorranno per convincere leader e opinioni pubbliche europee che occorre superare 28 stati maggiori, 28 intelligence, 28 sistemi d'arma, 28 mercati industriali diversi per fare l'esercito europeo. Ecco, questo è Marco D'Agostini che dice una cosa di buon senso saggio. Mario, puoi ridire il nome della poesia perché è piaciuta ai nostri ascoltatori? È un'opera di Siegfried Sassoon, adesso non ho il titolo qua della poesia, comunque se lo cercate anche online trovate la bio e tutto, è un grandissimo poeta di guerra, è famoso per questo, fa venire i brividi, molto bellissimo. Bello. Vai con la tua bolla, Mario. Precious angel under the sun, how was I to know you'd be the one to show me I was blinded. Beh, da un poeta all'altro, che questo è lui, how weak was the foundation I was standing upon. Precious angel. Ok, non è proprio angelico quello di cui devo parlare, perché si tratta di occupazione, disoccupazione e crescita. Tra un po' l'Istat dà i dati sul lavoro di aprile Italia, ovviamente, certo, e i conti trimestrali, quindi vediamo un po' se l'effetto della fine degli incentivi si presenterà ancora. Immagino di sì, vediamo in che termini. In Europa l'inflazione a zero sta diventando un problema, la Germania è là che cerca di capire come fare. È uscito il dato proprio in Germania delle vendite al dettaglio, di nuovo in calo, meno 0,9. Di contro invece in Giappone c'è un dato molto sorprendente sulle costruzioni di nuove abitazioni, più 9%. Penso gli analisti avevano previsto un più 4. Quindi qua siamo più del doppio, sono cose molto interessanti. Ma perché tu conosci degli analisti che ci pigliano nelle previsioni? Qualcuno sì, non siamo così cattivi. Raro. Sì, è vero che ultimamente non hanno fatto benissimo. Escono i dati sulla spesa dei consumatori negli Stati Uniti, quindi sulla disponibilità di reddito e come lo spendono, sono sempre dati interessanti, dovrebbero essere molto buoni. Altri indici ho visto escono sulla Francia e su altri paesi, insomma la somma di tutto, Giovanni, è che Stati Uniti e Asia in ogni caso crescono, e lì l'Italia e l'Europa stanno nel mezzo, insomma un po' difficile la situazione, crescita molto lenta, molto lenta. Diventiamo nani. Nanificazione dell'Europa. Vabbè. Salamino. 600 ettari in 3 giorni, e qui Giovanni c'è da buttarla in politica. No. E va bene che c'è stata la voragine nel Lungarno, il tubo rotto dell'acqua pubblica a Firenze, c'è stato anche l'attentato il 18 maggio 2016 al presidente del Parco de' Nebro di Giuseppe Antoci, un agguato stile anni 70. Ecco, sono segnali di un disagio, uno dettato dall'incuria amministrativa, l'altro dalla recrudescenza della criminalità agreste, ed è un mancato sentimento tutto italiano, quello di non riuscire a essere degni della bellezza. E sono 600 ettari bruciati in 3 giorni. Ha voglia Topolino, il mitico settimanale, a invitare tutti in edicola per il paperardo, e quindi un invito in Sicilia, perché 600 ettari bruciati in 3 giorni a Pantelleria raccontano una verità, e cioè che per esempio quella velocità che la regione siciliana ha messo nell'agevolare le lobby del petrolio e trivellare il mare non la mette invece nell'attuare un iter iniziato nel 2007 col governo di Prodi, quando nell'isola del Vento, del Passito, dei Musi era stato previsto il primo parco da realizzare a sud dell'Aspromonte. 600 ettari ridotte a polvere in 3 giorni. L'isola brucia da sabato scorso. La stagione turistica è segnata e dalle 17.30 di sabato scorso, dalla Montagna Grande, dilaga un diluvio di fuoco. Il sindaco Salvatore Gabriele accusa criminali collegati a certe sacche di Resistenza Sudola. E nella Resistenza Sudola c'è tutto il racconto e l'immagine di una burocrazia che trova le lentezze in queste cose e le velocità altrove, appunto nel trivellare. E sono 600 ettari bruciati in 3 giorni e questo parco ha trovato conferma in una dichiarazione di Stefania Prestigiacomo oggi su Repubblica, quando dice: abbiamo subito sin dall'inizio fortissime resistenze nei territori ma anche all'interno della burocrazia regionale. Insomma, è la solita storia. Massimiliano Fuxas, che è un pantesco d'adozione, dice: mi sento male vedendo questo scempio. Guardando pure al disastro del Lungarno di Firenze, penso che noi italiani non ci amiamo. 600 ettari se ne vanno perché qualcuno ha messo mano al fuoco. Come qualcuno ha fatto fuoco al Parco dei Nebrodi, come qualcuno, non capendo un tubo, non si è accorto del tubo rotto sul Lungarno. E quindi c'è solo da buttarla in politica con un invito ben preciso. L'invito al viaggio. Ti invito al viaggio in quel paese che ti assomiglia tanto. I soli languidi dei suoi cieli annebbiati hanno per il mio spirito l'incanto dei tuoi occhi quando brillano offuscati. Laggiù tutto è ordine e bellezza, calma e voluttà. Il mondo s'addormenta in una calda luce di giacinto e d'oro. Mario, allora tocca a te. La bolla tua. Una bollaccia. They don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Che è sta roba? Vabbè, la guerra l'ha colpito. Che Beyoncé. Ma non trattate prima? No, non sulla colonna sonora. Perché io tratto con la guerra, io subisco, non hai ancora capito. No, l'ho capito benissimo, lo vedo. Quando lascio fare, punto, tanto sulla musica, lo sai che è così. Dai. Però la prima era molto bella, dai. Quella di prima brava, era bella. Gloria. Allora, vi prego, ridateci la Russia, visto che eravamo in tema, ho messo insieme 2 o 3 cose che stanno succedendo. Sigmar Gabriel, insomma, ministro dell'economia della Germania, dice che bisogna piano piano smetterla con le sanzioni per la Russia. È interessante perché il ministro degli esteri Steinmeier dice praticamente la stessa cosa, legandola ovviamente percorso diplomatico alla piena attuazione degli accordi di Minsk, quindi parliamo dell'Ucraina e così via, quindi le sanzioni dovrebbero finire. Insomma, la Germania piano piano, un po' davanti, un po' dietro le quinte, si sta dando da fare per normalizzare i rapporti con Mosca. Certo. Questo dovrebbe essere un dato positivo se si realizza per l'Italia, che ha perso qualche miliardo dietro le sanzioni. Questo significa che il G7, speriamo al più presto, perché altrimenti non si fa niente in politica estera, prima o poi tornerà col format diplomatico insieme alla Russia. D'altronde, come abbiamo anche registrato qui, il G7 in Giappone è stato un fallimento, certo, politico, non si è risolto nulla. Quindi poi sì, aspettiamo, vediamo che cosa succede. E intanto noi sentiamo il canzoniere. Mi piace l'arrosto e del fumo non so che farne. Se avessi sposati tutti quelli che hanno detto di volermi, avrei pure tanti mariti. Quanti arrivano a questa locanda, tutti di me si innamorano. Tutti mi fanno i cascamorti e tanti, tanti mi esibiscono di sposarmi addirittura. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666. Il titolo della poesia, perché ovviamente non mi ricordavo il titolo, ma sappiamo chi è "A ogni ufficiale morto". Sì. Per essere, per Andrea, essere Andrea, se no Andrea si arrabbia e dice che no, tu non glielo vuoi dare un aiuto. Lo dati i numeri 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS per il canzoniere. Un aiutino non è facile, dici? È facile. Un aiuto lo vogliamo dare. Sì. Evoco il nome di un grande regista, Tinto Brass. Va bene, mi pare che ci siamo quasi. Vabbè, vediamo se arriva la scoperta di questo canzoniere. Intanto noi andiamo in pubblicità. Mix 24. Vado a vedere cos'è un vaccino. Il principio del vaccino è: prendi un bambino sano, che non ha neanche un anno, col suo sistema immunitario perfetto, gli inoculi un virusino piccolo, in modo che lo abitui un po'. Nel caso arriva il virus più grosso, il virusino piccolo è lì che anni che gira e fa un culo così al virusino. Cosa significa non vaccinare il proprio figlio? Non è soltanto un tema della sicurezza del bambino, ma di tutti i bambini che sono intorno. Immaginatevi un'epidemia di meningite, abbiamo avuto la polio in alcune aree del Medio Oriente, noi viaggiamo, i virus girano, non chiedono il permesso per entrare nei confini, quindi la vaccinazione rimane lo strumento primario di salute pubblica. Uno strumento primario di salute pubblica, polemiche aspre, notizie spesso infondate, i vaccini continuano a far discutere. Allora noi torniamo indietro agli inizi degli anni 50, quando un virus sconosciuto colpisce i bambini di tutto il mondo. È la poliomielite, una malattia rara e devastante che sembra inguaribile. Poi un grandioso progetto di ricerca, la sperimentazione umana, il duello tra due scienziati, Salk e Sabin. E infine la vittoria, il vaccino che vince per sempre la polio. Polio, una storia americana, la cronaca inedita, appassionante, di un'estate di paura, di anni di ricerca, testimonianze, polemiche, rivelazioni qui a Mix 24, il giallo della storia, dopo il giornale radio. E a grande richiesta risentiamo il canzoniere. Mi piace l'arrosto e del fumo non so che farne. Se avessi sposati tutti quelli che hanno detto di volermi, avrei pure tanti mariti. Quanti arrivano a questa locanda, tutti di me si innamorano, tutti mi fanno i cascamorti e tanti, tanti mi esibiscono di sposarmi addirittura. Beh, facile, dai. Qualcuno ci sarà. Intanto, Mario, c'è ancora una bolla? Sentiamo un nostro amico. L'avidità. Non trovo una parola migliore e valida. L'avidità è giusta, l'avidità funziona, l'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo, l'avidità in tutte le sue forme, l'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità. Allora, mi pare chiaro, no? Gordon ha detto la sua. Ci sono due cose interessanti. La prima riguarda una grande azienda globale, Volkswagen. Sono usciti adesso i dati del primo trimestre di quest'anno e i profitti del gruppo sono scesi del 20% rispetto all'anno scorso. Sono 2,31 miliardi di euro, è una discesa addirittura superiore al dato atteso. Questo significa che in realtà il Dieselgate, lo scandalo, ha fatto danni colossali sul mercato, in particolare appunto del diesel e per quel marchio là. Vediamo cosa succede con gli altri casi che stanno spuntando. Vediamo anche un po'. La Fiat. Sono tutti un po' dentro in questo momento. Ognuno, ognuno c'ha il suo particolare difetto. Sì, secondo me le norme anche sono abbastanza discutibili. Sì. E in ogni caso non mi pare una gran trovata quella di frenare. Perché la guerra se la stanno facendo con l'applicazione rigorosa delle norme. Sì, ma vabbè, non farmi dire, dai. È ridicolo. Giovanni, la crescita è agganciata anche all'automobile. Se noi siamo così pazzi da fermarla per queste cose, certo. vabbè, pazienza. C'è un'altra cosa che segnalo: sono usciti i dati dell'inflazione in Francia e non sono positivi per noi, perché a maggio è più 0,4% mensile, ma è a 0,1 annuale, cioè siamo a zero. Questo significa che la spirale deflattiva è là, è presente. Finora non si è riusciti a far niente. Intanto abbiamo invece Gino da Silvi Marina per il canzoniere. Buongiorno Gino. Ciao. Allora, pronto? La locandiera. Vero. Grazie, bravo Vito. Devo dire che anche Simonetta l'ha indovinato, anche Fabio Costa da Vicenza, anche Rita da Palermo, anche Massimiliano da Firenze, anche Lia Kukovac. Insomma, devo dire, era una scelta facile, davvero abbastanza facile. E adesso con il professor Roberto Bernabei, come al solito, commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. New England Journal of Medicine, maggio 2016. La prevenzione delle allergie da cibo nei bambini. Evitare o consumare prima? Per anni si è combattuta l'allergia ai cibi semplicemente tenendo lontano i bambini da cibi ritenuti pericolosi, tipo uova, noccioline, pesce. Si pensava infatti che un'esposizione precoce aumentasse la sensibilità dei bambini agli allergeni contenuti in questi alimenti. Un anno fa però è uscito uno studio che ha rivoluzionato un po' il pensiero, perché ha fatto vedere che l'esposizione precoce alle noccioline diminuiva drammaticamente le allergie alle stesse. Allora si sono presi 1300 bimbetti dai 3 mesi in su e si sono esposti questi bimbetti a burro di arachidi, un piccolo uovo, 40 grammi di latte vaccino, 25 grammi di pesce bianco, 2 biscotti di cereali a settimana. Il gruppo di controllo invece era costituito da bambini che venivano allattati e basta fino ai 6 mesi e poi veniva rivolta attenzione all'introduzione di alimenti pericolosi. Che succedeva? Intanto succedeva che solo il 42% dei bambini è riuscito a mantenere questa dieta, diciamo, allergizzante, perché evidentemente l'aderenza a una dieta così non è facile. E allora, mettendo tutti insieme i bambini che ce la facevano a fare la dieta, quelli che non ce la facevano e il gruppo di controllo che invece non era esposto, si vedeva che non c'erano grosse differenze e che quindi si poteva procedere un po' a casaccio, se volete, o secondo le volontà dei genitori. Però se si andava a studiare il 42% che aveva fatto la dieta scrupolosamente, si vedeva che avevano molte meno allergie rispetto a quelli che erano stati il gruppo di controllo e che non erano stati sottoposti ai cibi pericolosi. Quindi questo ribalta un po' le nostre idee e probabilmente bisognerà ragionare in modo diverso e avere il coraggio o la piacevolezza di dargli, se volete, anche noccioline e pesce, anche in tenera età. Bene, ho usurpato il microfono a Giovanni Minori perché ho al mio fianco Gloria Guerrera, sono molto emozionato e voglio sapere che canzone hai scelto per noi. Oggi una canzone per chi sa vendersi come Giuda e attirare le prede nella noia. Fiorella Mannoia, Caffè Nero Bollente. Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. In questo nido scaldato già dal sole paziente, ma tu che smetti alle 3, poi torni a casa da me, tu che non senti più niente, mi avveleni la mente. Un filo azzurro di luce scappa dalle serrande e cerco invano qualcosa da inventare in mutande. bisogno di te, perché io non ho bisogno di te.